E poi sarà come morire, cadere giù, non arrivare mai. E poi sarà come bruciare nell'inferno che imprigiona. E se ti chiamo amore tu non ridere, se ti chiamo amore. E poi sarà come morire la notte che che non passa mai.